Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa, e c'è Roberto questa sera in regia. Buonasera Roberto, grazie per il supporto tecnico, e in collegamento dovrebbe esserci Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao Annalisa, buonasera amici radioascoltatori e buonasera anche a Roberto alla regia. Dunque Alessandra, ancora una volta un giro di boa al passo con l'attualità. Questa sera ci occupiamo di Afghanistan. Sono 4.200 i militari italiani che tra le province di Kabul e di Herat prendono parte alla missione multinazionale ISAF nel paese. La componente principale delle forze italiane è costituita dal personale proveniente dalla brigata paracadutisti Folgore dell'esercito. È presente inoltre un significativo contributo di uomini e mezzi della Marina Militare, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza. La missione, come sapete, è nata nel dicembre 2001, questa missione della NATO che ha il compito di condurre operazioni militari secondo il mandato ricevuto in cooperazione e coordinazione con le forze di sicurezza afghane, con le forze della coalizione, per assistere il governo afghano nel mantenimento della sicurezza, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il paese e assistere gli sforzi umanitari e di ricostruzione. L'Italia ha uno dei contingenti più numerosi nella missione dopo Stati Uniti, Regno Unito e Germania, e abbiamo pagato un alto numero di caduti. Questa sera con la nostra ospite parleremo di, per esempio, di come reagiscono i nostri militari sul campo all'alto rischio a cui sono sottoposti. Si parla sempre più di una exit strategy dal paese, il ritiro graduale delle truppe impegnate è iniziato, ma il paese è diventato più sicuro e più stabile? Ne parliamo questa sera con la nostra ospite. Sì, la nostra ospite è già in collegamento con noi, si tratta di Tonia Cartolano. Tonia, mi senti? Salve, buonasera a tutti, vi sento. Ciao Tonia, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Tonia Cartolano è giornalista di Sky TG24, è da poco rientrata da una missione che l'ha vista presente un mese in Afghanistan ad Herat con i militari italiani. Tonia è rimasta un mese in Afghanistan, dove si è occupata di raccontare da cronista il lavoro dei nostri militari, oltre che la transizione con il passaggio del controllo della sicurezza del paese dalle forze ISAF agli afghani. Senza dubbio Tonia è stata un'osservatrice attenta, oltre che delle operazioni militari, anche della realtà civile, delle donne afghane, dei progetti che la nostra cooperazione sta realizzando in loco. Dunque Tonia, Annalisa lo citava prima nell'introduzione, vi è un numero sempre crescente di caduti italiani in Afghanistan. L'ultimo italiano caduto è il caporal maggiore David Tobini, di soli 28 anni, è stato ucciso lunedì scorso in uno scontro a fuoco che porta il triste contributo di vite italiane a ben 41. Immagino che durante il tuo soggiorno, visto che appunto hai soggiornato ad Herat, hai avuto modo di visitare le truppe italiane. Dunque la prima nostra domanda è: come ti sono sembrati i nostri ragazzi in Afghanistan? Realizzano quello che vuol dire, quello che è il rischio di essere feriti in Afghanistan, ma soprattutto di lasciarci la pelle in Afghanistan? Sì Alessandra, buonasera a tutti di nuovo. Io credo che loro abbiano, ed è un onore alla verità in quello che ti sto per dire, abbiano una consapevolezza piena del loro ruolo e anche del rischio che corrono, perché non sono boy scout i nostri soldati, ma sono appunto militari, sono armati, vanno in missione, una missione sì di pace come viene definita, ma si sa che l'Afghanistan è uno dei luoghi più insicuri di tutti i contesti dove i nostri soldati sono attualmente impegnati. Ti dico che hanno consapevolezza perché io ho parlato a lungo con loro dal momento che come embedded ho lavorato per un mese intero con i nostri militari, diciamo impiegata io in particolare nella base di Herat, dove c'è la base del nostro contingente, che è quello comandato dal generale Carmine Masiello, che è un casertano, che tra l'altro è il comandante del Regional Command West, che è una delle cinque zone di competenza, diciamo, in cui è stato suddiviso tutto l'Afghanistan, e questa regione ovest è proprio a comando italiano. Voglio dirti e voglio precisare che hanno consapevolezza perché, come ti raccontavo, ho parlato più volte con loro, e purtroppo nel mese in cui sono stata insieme con i nostri militari ho dovuto raccontare, oltre a tutte le cose che tu prima, a cui tu prima accennavi, anche purtroppo di due morti, quella del caporal maggiore scelto Gaetano Tuccillo, che è venuto il 2 luglio, un ragazzo di 29 anni, giovanissimo, un campano della brigata Ariete di Maniago, e il secondo, il caporal maggiore Roberto Marchini, un altro parà di Viterbo, un ragazzo giovanissimo, 28 anni anche lui, sono tutti molto giovani. Sono venuta via praticamente alla vigilia della ennesima morte, quella del primo caporal maggiore Davide Tobini a cui tu facevi riferimento, che era del 183esimo reggimento paracadutisti Nembo di Pistoia. Questi ragazzi sono tutti molto giovani, molte volte, cioè la maggior parte di loro non arriva a 30 anni, sono ragazzi molti del sud, perché purtroppo l'esercito è, come dire, una risorsa anche per questi ragazzi, ed è forse il posto dove si immagina di poter avere un futuro, ma è da persone oneste dover dire che questi ragazzi non possono scegliere di fare i soldati e di andare in una missione come quella afghana soltanto perché è un lavoro. Hanno un senso altissimo del dovere, hanno una consapevolezza del proprio ruolo, dell'importanza di quello che vanno a fare lì in Afghanistan, hanno una sensibilità altissima. Io sono stata con loro in diverse attività, molte delle quali a contatto con le persone. I nostri militari fanno tantissima attività simica, viene detta attività simica quella in pratica che è a metà tra il civile e il militare, a contatto con le persone, di supporto alla governance, di assistenza, di diffusione anche dei concetti che sono ormai, diciamo, di quotidianità assoluta, come quello della transizione, del ritiro. Ecco, i nostri militari fanno quello, i nostri militari sono a contatto con le persone, li ascoltano, e questa è una cosa fondamentale, e non si può immaginare, come ti dicevo, che possano andar lì soltanto per uno stipendio. Diciamo anche quanto prendono questi ragazzi non prendono oltre i 130 euro al giorno, ed è da dire questo, perché non è possibile che la vita di una persona valga soltanto 130 euro al giorno. Voglio precisarlo perché tutte le volte che muore un soldato in Afghanistan, e purtroppo tu lo dicevi, ce ne sono stati 41 di morti dall'inizio della nostra missione in quel paese, ogni volta si parla di ritiro delle truppe, ogni volta si discute anche della mercenarietà di questi ragazzi, e questa è ogni volta un'offesa che viene fatta a questi giovani che hanno un senso della divisa, come ti dicevo, molto alto, il dovere, sentono il dovere e sentono il compito, la pesantezza del compito che ricoprono. Tante volte viene anche detto sono eroi. Allora io ti devo dire, quando purtroppo ho dovuto raccontare di questi due altri ragazzi che se ne sono andati e che sono tornati a casa, non come avrebbero voluto abbracciando le mamme agli aeroporti, assolutamente no, sono tornati a bordo di un C-130 in una bara, salutati con un picchetto d'onore dai commilitoni, e questi ragazzi sono offesi dal persistere di questo urlo a torniamo a casa quando si muore. Non è nel momento del lutto, credo, che si debba fare un ragionamento di ritiro anche delle nostre truppe. Io ho vissuto con loro, ho parlato con loro quando ci sono state queste morti, due in particolare, perché soltanto a luglio ce ne sono state purtroppo tre, e loro ci tenevano a precisare proprio questo, cioè il nostro compito è prima di tutto quello di arrivare qui e di contribuire a un processo di democratizzazione di questo paese. Eroi? Io ho chiesto anche questo, ho parlato più volte con il cappellano militare, questo signore Don Angelo Pavesi, e io gli chiedevo: Don Angelo, ma bisogna chiamarli eroi? Non bisogna chiamarli eroi? E mi piace ripetere quello che lui mi ha detto, convincendomi di questa cosa. Ha detto: gli eroi sono quelli che fanno bene il proprio dovere. Quindi mi ha detto: Tonia, non aver paura a chiamarli eroi, perché questi ragazzi fanno bene il proprio dovere. Questi ragazzi sono ragazzi che anche quando muore uno di loro continuano a lavorare senza fermarsi, perché una base militare non si può fermare, una missione non si può fermare, ed è nel rispetto di questi concetti, cioè del fatto che loro vanno lì con una consapevolezza piena del proprio ruolo e del proprio compito, che non bisogna parlare in quel caso, cioè nel caso del lutto della morte. Poi diciamo anche questo, per evitare di essere retorici, perché non voglio esserlo, è vero anche che c'è qualcuno che sceglie l'esercito, sceglie la divisa perché è l'unica possibilità. Ma non si può pensare che uno scelga di andare in Afghanistan soltanto per i soldi. Devi avere, poi ci sarà anche una parte di questi, non sto dicendo che non ce ne siano, e forse per essere proprio corretta e completa nell'informazione è giusto anche dire che tra quelli che vanno lì ci sarà anche qualcuno che sceglie di farlo per una questione economica, perché probabilmente stare 6 mesi in missione porti a casa dei soldi, ma è offensivo pensare che si faccia solo per i soldi. Io ho sentito un senso altissimo della divisa, un senso altissimo del gruppo, una condivisione altissima del compito, e questa è una cosa che fa onore ai nostri soldati e che bisogna dire. Tonia, hai anticipato tu stessa quella che sarebbe stata la mia prossima domanda. E infatti dopo la morte del caporal maggiore Roberto Marchini ci sono state diverse dichiarazioni tra le forze politiche italiane, il presidente della Regione Veneto che ha parlato di un'altra morte dentro questa insensata strage, un altro italiano morto in Afghanistan, una sorta di routine in una sporca guerra, così ha detto Oliviero Diliberto. E il Senato ha qualche giorno fa dato il proprio sì al rifinanziamento delle missioni di pace all'estero, il PD si è spaccato ma poi ha votato a favore, ha invece votato no l'Italia dei Valori, sostenendo che è il momento di aprire un dibattito sul futuro delle missioni, sostenendo che le truppe italiani in Afghanistan sono percepite erroneamente come occupanti. E qui appunto io ti volevo chiedere, e già tu hai anticipato questo discorso nella tua risposta alla domanda precedente, come le nostre forze vedono il dibattito politico in Italia tra le forze politiche. Guarda, sulla missione. Ecco, voi avete accennato già alle divisioni politiche che ci sono state, però alla fine il risultato è che anche la Lega, che era quella che si era più opposta, nonostante tutti i mal di pancia, ha votato sì al rifinanziamento delle missioni all'estero, e anche se sono chiaramente restati i malumori, i mal di pancia e le critiche del carroccio intero per l'impegno insomma dei nostri militari in missione, il ministro Calderoli, lo dicevate, ha espresso dubbi ma ha comunque confermato l'impegno per un senso di responsabilità. E come percepiscono i nostri soldati quando sono in missione queste? Io credo di aver percepito da loro l'offesa. Senza dubbio loro si sentono offesi, e sapete perché? Perché quando muore un ragazzo c'è qualcuno che è a casa, che sono i genitori, che c'è, se c'è una moglie, se c'è una fidanzata, comunque sono i parenti, la famiglia, quelli che lo aspettano per rivederlo vivo, che vorrebbero dare un senso anche ad una morte, immagino, e quindi sentir dire proprio nel giorno in cui muore un figlio, muore un marito, che bisogna tornare a casa, è come vanificare il sacrificio di un ragazzo di 20, 25, 28 anni, come sono stati gli ultimi ragazzi che sono morti. Perciò io dico che non è, e non lo dico soltanto io, per fortuna, che non è corretto parlare di ritiro dei nostri soldati in occasione di un lutto. È giusto che si pianifichi, così come sta facendo l'America. Obama alla fine di giugno ha fatto il proprio timetable, no, del ritiro dei soldati, i primi 650 sono già rientrati a casa e non saranno rimpiazzati, l'America ha parlato di questo, ne ha parlato anche il presidente francese Sarkozy, tutti ne stanno parlando. È giusto che anche l'Italia inizi a fare conti con il ritiro, non a caso lo stesso ministro Calderoli ha invitato il ministro La Russa a continuare a lavorare per completare la exit strategy che dovrà portare la riduzione dei nostri soldati, e lo stesso ministro La Russa aveva detto già a giugno in occasione del vertice di Bruxelles che nel secondo semestre di quest'anno, quindi quello che è già cominciato, si inizierà a parlare del ritiro dei nostri uomini. Questo che cosa significa? Ritiro significa che prima o poi verremo via anche noi, ma il ministro della difesa ha anche parlato di un impegno dei nostri militari anche dopo il 2014, più volte ha detto, e l'hanno detto anche diverse forze politiche che chiaramente sostengono il nostro ministro della difesa, che non è possibile immaginare di lasciare l'Afghanistan da un momento all'altro, anche perché diciamola tutta, gli afghani stanno facendo, le forze di sicurezza afghane stanno facendo i conti con una realtà che non conoscevano, cioè noi praticamente, noi Italia, noi tutti i contingenti internazionali stanno fornendo agli afghani, alle forze di sicurezza afghane, esercito, polizia, ma anche alla stessa pubblica amministrazione, gli strumenti per fare in modo che l'Afghanistan possa camminare da solo. E se devo essere sincera, io sono stata lì per un mese, ma anche raccogliendo i pareri di chi è stato prima, di chi ci sarà dopo, di chi c'è stato negli anni passati, l'Afghanistan non è ancora maturo per poter dire che è prontissimo a poter essere lasciato solo, avrà bisogno del supporto dei contingenti internazionali ancora a lungo, Non è possibile immaginarsi che nel giro di 10 anni, cioè da quando è iniziato nel 2001 l'impegno, la presenza dei contingenti ISAF lì in Afghanistan, è possibile immaginarsi che a distanza di 10 anni questo processo sia concluso, sia ultimato e sia realizzato l'obiettivo che ci si era preposti all'inizio della missione. Non abbandoniamo l'Afghanistan, ha detto la russa, chiaramente non condiviso invece da altri che vorrebbero che in Afghanistan, dall'Afghanistan venissimo via già domani, ma è importante immaginarsi che una missione ha senso perché è iniziata ma deve essere portata a compimento, non interrotta. Un ritiro improvviso, repentino, senza compimento di quelli che sono gli obiettivi che ci si era prefissati, sarebbe una missione fallimentare. E io immagino che anche per dare un senso ai morti, che non ci sono purtroppo soltanto nel nostro contingente, 41 morti italiani, ma ce ne sono molti di più per esempio tra gli americani, che è chiaro hanno un numero elevatissimo di uomini, quindi un dispiegamento di forze rispetto al nostro paese, ma è anche necessario dar senso a quelle morti attraverso uno sviluppo completo della missione che abbia un inizio, uno sviluppo nel quale siamo, e un compimento che non è lasciare l'Afghanistan da un momento all'altro, semplicemente perché in Afghanistan si muore, perché in Afghanistan si muore della verità e si continua a morire anche oggi, ma non soltanto tra i nostri contingenti, muoiono gli stessi afghani, gli AID, gli ordigni che vengono rudimentali, che vengono piazzati lungo la strada, lungo il ciglio della strada, nei campi, quegli ordigni non uccidono soltanto i soldati, i nostri così come gli altri, uccidono gli stessi afghani, uccidono i bambini che sono nel deserto afghano e che giocano spesso con le bottiglie nei quali vengono nascosti gli ordigni, con le pentole a pressione nei quali vengono nascosti gli ordigni, nelle motociclette che vengono lasciate lungo la strada e che sono quelle stesse motociclette ordigni improvvisati, rudimentali, quelli che uccidono tantissimo in Afghanistan, perché oggi la guerra in Afghanistan, perché è ancora guerra, non è una guerra a viso aperto, ed è questa la cosa più meschina, cioè si muore perché non vedi il nemico. L'ultimo morto, quello che c'è stato, il primo caporal maggiore Davide Tobini del reggimento paracadutisti Nemmo di Pistoia, è stato un morto diverso rispetto a quelli precedenti, perché lì c'è stato uno scontro a fuoco, quindi lì puoi anche vedere il nemico. Gli ordigni rudimentali, gli AID, quelli improvvisati, non sono ordigni piazzati da chi si vuol far vedere, è una guerra subdola, come dire, una trappola meschina che viene piazzata dai, diciamo, i talebani, ma non sono i talebani, io ritengo, i talebani forse sono quelli che stanno discutendo e trattando politicamente con l'America, sono gli insurgents, quelli che potrebbero passare da una parte all'altra con faciltà, con chi garantisce di più, insomma. Sono quelli che riesci anche a comprare, sono quelli che gestiscono i villaggi, sono un po', come dire, forse estremizzo ed esagero, un po' come la mafia siciliana, no? Quelli che tentano di controllare un territorio, ma che non hanno un'agenda nazionale e internazionale come invece hanno i talebani. E dunque, Tonia, qui viene la mia domanda, a cui tu facevi anche riferimento prima, gli obiettivi iniziali della missione. Dopo quasi 10 anni di permanenza, come lo ricordava prima Annalisa nell'introduzione, le forze ISAF furono dispiegate in Afghanistan già nel dicembre del 2001, il paese è veramente più sicuro di quanto lo era prima? Perché questo era uno degli obiettivi, creare uno stato democratico e più sicuro, e siamo riusciti soprattutto in quello che io considero un arduo compito di creare delle forze armate locali che siano fedeli al governo, ma che siano anche indipendenti dai giochi delle tribù, ma soprattutto estranee alla dilagante corruzione e non compromesse con il traffico di oppio. Ci siamo arrivati a questo obiettivo? Io credo, Alessandra, che sia un percorso ancora in corso, cioè non me la sento di dire che è un processo ultimato e neanche che siamo vicini all'obiettivo. Io ritengo che siamo, non vorrei essere negativa, ma che siamo ancora in alto mare. Siamo andati lì e siamo impegnati in un processo di stabilizzazione in questa fase, è finita, come dire, la fase emergenziale, ma siamo in un processo di stabilizzazione che è iniziata ora. Tu mi chiedevi se ci sono zone sicure, il processo di transizione che è iniziato agli inizi di luglio e che ha riguardato 7 aree tra distretti e province, è un processo che dovrebbe garantire il passaggio esclusivo del controllo della sicurezza dalle forze ISAF alle forze afghane. Questo sta avvenendo. È una prima fase, ma poter dire che gli afghani sono indipendenti dalle forze ISAF, quando dico afghani chiaramente parlo di forze di sicurezza afghane, che siano indipendenti dalle forze ISAF non è ancora così. Io ho avuto più volte modo di parlare col generale Masiello, che è il comandante del nostro contingente, al quale ho chiesto più volte: generale, ma la provincia di Herat, quella dove è dispiegato il nostro contingente, è sicura? Lui stesso ha detto: siamo in una situazione delicata, in cui parlando di transizione siamo anche noi più consapevoli che si tratta di una situazione particolarmente vulnerabile, nel senso che oggi chi vuole minare il processo di transizione lo può fare e di fatto lo sta facendo. Non dimentichiamo che il 30 di maggio scorso è avvenuto un attacco durissimo al PRT, il PRT è il Provincial Reconstruction Team italiano, quello di Herat. Ci sono stati diversi morti afghani, per fortuna non ci sono stati morti italiani, ma abbiamo rischiato molto, un capitano è rimasto gravemente ferito. Quello era un chiaro segnale, e anche lì c'è stato il riconoscimento da parte delle nostre autorità, un chiaro segnale di sabotaggio del processo di transizione. E anche quando si parla con la gente, io ho avuto l'impressione per le strade di Herat, quando sono andata, che la gente oggi aveva più paura di ieri. E sapete perché? Perché oggi la gente sa che se gli insurgents sono capaci, non parlo di talebani ma di insurgents, sono capaci di colpire, vuol dire che rappresentano ancora una minaccia. E di fatto, se noi andremo via, e questo è un discorso che diciamo tutti quanti i contingenti hanno messo sul tavolo, chi rimane sono loro, e la gente deve fare i conti con loro. Quando prima avvicinavi un cittadino per le strade di Herat, probabilmente ti si avvicinava con molta facilità, con molta tranquillità. Oggi hanno paura, perché sanno che un avvicinamento alle forze straniere, a un giornalista straniero, può significare una sorta di, come dire, contaminazione, di tradimento potenziale possibile. E chi rimane lì sono gli afghani, gli afghani cattivi, ma sono loro, e la gente del posto deve avere a che fare con loro. Quindi dire, per rispondere alla tua domanda, per chiudere questa parte, dire che oggi l'Afghanistan è un posto sicuro non è assolutamente così, non ci si sente sicuri, ma non si sentono sicuri neanche i nostri soldati. Cioè, i nostri soldati ogni volta che escono hanno la consapevolezza piena del rischio che corrono, perché le strade dell'Afghanistan sono insicure. I nostri militari lavorano per renderle sicure ogni giorno, addestrano sia l'esercito che la polizia afghana, fanno lavoro di mentoring, di addestramento pratico, di trasmissione anche di nuovi concetti, anche di nuove modalità di difesa, ma è tutto un processo che sta continuando. E quando il ministro La Russa in questo senso ha ragione, quando dice dopo il 2014 noi continueremo in questa sorta di partnership proprio appunto per continuare ad addestrare le forze di sicurezza locali, ha ragione, perché non è un processo che si può compiere nel giro di 2 anni. Tony, hai a livello molto embrionale. Tonia, io ho un'ultima domanda da studio, so che anche Alessandra dopo ha un'ultimissima domanda, quindi ti preghiamo di essere concisa in questa risposta. Quando si parla di Afghanistan, i media tendenzialmente riportano di attacchi alle forze ISAF, di morti tra le stesse. Devo dire che quasi mai si parla di come la situazione sia cambiata nel paese dal tempo del regime dei talebani. Noi sappiamo, come tu stessa hai detto, che ti sei occupata in maniera approfondita anche della realtà civile delle donne afghane, dei progetti che la nostra cooperazione sta realizzando lì, e ti vorrei chiedere se puoi condividere con i nostri ascoltatori qualche esempio della tua esperienza a riguardo, qualche dato positivo. Sì. Qualche dato positivo è il carcere femminile di Herat. Ad Herat non esisteva un carcere femminile, oggi esiste un carcere femminile ed è stato costruito completamente, interamente dal PRT, quel team di ricostruzione di cui vi dicevo, il PRT italiano di Herat, dove attualmente al carcere risiedono 151 donne. Io l'ho visitato pochi giorni prima di venir via, donne che vivono con i loro bambini, e devo dirvi anche che è una struttura molto all'avanguardia, insomma, dove le donne possono lavorare, e io ho parlato con alcune di loro, le ho intervistate, sono anche dei racconti che mi sono rimasti nel cuore perché mi hanno toccato molto. Donne che avevano tagliato la testa ai mariti perché le costringevano alla prostituzione, e comunque erano, insomma, oggetto della loro malvagità e dei loro soprusi. Queste donne oggi hanno la possibilità, anche se all'interno di una struttura detentiva come quella del carcere, di sperimentare una forma di libertà. Io ho sentito che il matrimonio forse era più carcere del carcere stesso, e quelle donne mi hanno raccontato questa realtà. Quindi questo lavoro, questo risultato è sicuramente il risultato anche del lavoro eccezionale che stanno facendo i nostri militari in Afghanistan, e questo è solo un esempio. Cioè, hanno lavorato per l'ospedale pediatrico, per l'ospedale degli ustionati, hanno lavorato per costruire scuole, quotidianamente i nostri militari escono, vanno nei vari villaggi per coinvolgere persone, per supportare, per dirvi, dal generatore di corrente all'aria condizionata, a qualsiasi cosa. Cioè, questa è una sorta di assistenza, ma anche l'avvio verso un'autonomia anche di gestione della propria vita, che per fortuna sta iniziando ad esserci. Tonia, io avrei un'ultima battuta da chiederti. Si è parlato molto ovviamente dell'uccisione di Osama Bin Laden. Tu sei stata in Afghanistan più volte per le tue missioni, questa è stata senz'altro la tua missione più lunga, ti ha visto un mese ad Herat, come dicevamo prima in apertura. Le tue missioni precedenti si sono svolte quando la ricerca o comunque la cattura di Osama era ancora in corso. Hai visto dei cambiamenti? C'è qualcosa che è veramente cambiato in Afghanistan grazie o in seguito alla morte di Osama Bin Laden? Guarda, posso dirti senza dubbio e senza paura di essere smentita che la percezione a livello basso della gente non è cambiata. Io non credo che la cattura, che poi non è stata la cattura ma l'uccisione di Osama Bin Laden, abbia cambiato la percezione della gente o della sicurezza della gente, ma neanche tra i nostri militari. L'obiettivo Bin Laden era un obiettivo tutto statunitense, insomma tutto americano, tutto loro. E quindi io credo che la differenza sostanziale non ci sia stata, e neanche la gente credo che abbia percepito alcuna differenza rispetto a prima. C'è però, e questa è una cosa che tengo a dire, una differenza nella percezione della gente e del cambiamento del paese che è iniziato. L'ultima cosa che voglio raccontarvi, perché per me è emblematica, io sono stata in centro ad Herat per parlare dei burka, mi faceva piacere raccontare questa realtà dei burka. Sono entrata in un negozio, un anziano di 60 anni, padre di 3 figli, con una moglie, mi ha detto: io alle mie donne non faccio vestire il burka, nel mio negozio vendo i burka, prima ne vendevo 50, oggi ne vendo 3 e ho deciso che voglio cambiare, entro la fine dell'anno voglio cambiare business, voglio occuparmi di vendere i chador e non più il burka, e voglio vendere chador e jeans, perché le nostre donne forse vogliono qualcosa di diverso. Ecco, per me questo è stato un segnale di cambiamento, quindi non soltanto pensare, diciamo, alla parte militare, a quella strategica, ma pensare a quella civile, a quella del basso. Ecco, secondo me questa è una, come dire, un segnale positivo di un Afghanistan, anche quello che vuole cambiare, e cambia anche grazie all'apporto della nostra missione, cioè dei nostri militari e di tutti gli altri contingenti. Ecco, questo è un segnale positivo che secondo me non va sottovalutato, con sforzi ancora eccessivi che sono richiesti, che dovranno esserci per non interrompere un processo che è iniziato 10 anni fa e che è purtroppo ancora lontano dalla conclusione. Tonia, siamo rimasti ormai in conclusione, malgrado il tuo intervento è stato molto interessante, sono sicura che come me anche Annalisa abbia ancora un sacco di domande da farti, ma i tempi della diretta sono terribili, dunque non ci resta che salutarci. Annalisa, spero di non essere stata troppo lunga. Tonia, grazie mille, grazie per il tuo contributo alla trasmissione di questa sera, veramente veramente molto molto interessante. Grazie, buon lavoro e speriamo di riaverti presto come nostra ospite. Ringrazio voi, vi abbraccio e vi auguro buon lavoro. Buon lavoro, ma soprattutto buone vacanze, visto che te le sei meritate. Qualche giorno lo farò, grazie, buon lavoro a voi, buone vacanze, spero che anche voi le possiate fare. Facciamo ora una brevissima pausa musicale. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. E in studio Annalisa, in collegamento Alessandra. Dunque, Alessandra, passiamo ora al secondo tema di questa serata. Sì, Giro di Boa si è occupato diverse volte negli ultimi mesi della pesante crisi economica che stiamo vivendo. Questa sera, in chiusura della stagione, ci sembrava giusto fare il punto della situazione dopo la maxi manovra che è stata varata in grande fretta da entrambe le Camere del Parlamento italiano all'inizio mese, manovra che permetterà all'Italia di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2014. Ciò nonostante, recentemente la Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha affermato: in un momento complesso come questo il nostro paese ha bisogno di tagliare la spesa pubblica, di riequilibrare i conti, altrimenti rischia di diventare come la Grecia, anche se non siamo come la Grecia. Tutto questo ovviamente con sempre un occhio alle borse e alle possibili speculazioni. Con la nostra ospite cercheremo questa sera di capire come i mercati hanno reagito alla maxi manovra del governo italiano presentata da Tremonti e che novità siano uscite dal summit economico della settimana scorsa avvenuto a Bruxelles, che ha visto nuovamente i capi di Stato e di Governo alle prese con il debito greco. Annalisa, ci vuoi presentare la nostra ospite che è in collegamento con noi? Sì, la nostra ospite di questa sera è Francesca Venturi. Buonasera Francesca. Buonasera. Francesca, buonasera e bentornata all'ascolto di Giro di Boa. Francesca è corrispondente qui a Bruxelles per l'AGI, Agenzia Italia, la seconda agenzia di formazione italiana, qui a Bruxelles appunto corrispondente da un anno e mezzo, giornalista specializzata in, in economia. Quindi bentornata ancora Francesca. E, Alessandra accennava nell'introduzione alla manovra del ministro Tremonti, approvata in tempi rapidi. Potresti ricordare ai nostri radioascoltatori quali sono i punti principali di questa manovra? Poi Alessandra ha anche parlato di una manovra che permetterà all'Italia di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2014. Che cosa significa questo esattamente da un punto di vista pratico? E dunque, intanto buonasera, grazie ancora di avermi chiamata. Dunque, la manovra approvata due settimane fa, in tempi insolitamente rapidi rispetto ai normali iter parlamentari, anche su spinta e richiesta del Presidente della Repubblica, è una manovra da 48 miliardi a regime circa, di cui una parte significativa, pari circa al 60%, quindi circa 29 miliardi di maggiori entrate e il resto di tagli ai costi. È una manovra significativa che ha suscitato polemiche, perché ci si aspettavano maggiori interventi sui tagli ai costi della politica. Qualcosa è stato fatto, ma non abbastanza secondo quanto dicono i critici, ed è stata criticata anche perché una parte dell'ammontare complessivo di questa manovra è stato rinviato a una fase successiva. Comunque l'obiettivo è quello di chiesto da Bruxelles di arrivare al pareggio di bilancio, cioè alla diminuzione del rapporto fra deficit e PIL, e farlo rientrare al di sotto del 3%, che è il limite stabilito dal patto di stabilità e crescita che è alla base dell'unione monetaria, quindi quella che ha portato alla creazione dell'euro, entro il 2014. Il problema è che questa manovra è stata approvata in gran fretta perché c'era questo problema, c'è ancora purtroppo questo problema dell'attacco speculativo ai titoli del debito italiano. Il fatto che la speculazione stia provocando un continuo lievitare del differenziale fra i rendimenti dei titoli di Stato italiano e quelli tedeschi rende sempre più lontano l'obiettivo del pareggio di bilancio, perché ovviamente il costo del debito aumenta con l'aumentare dei tassi di interesse che lo Stato deve pagare a chi si indebita, a chi acquista i titoli del nostro debito. Questo è una specie di circolo vizioso e dal quale sembrava di essere in parte usciti con questa decisione sulla manovra, perché i mercati hanno reagito positivamente e soprattutto dopo le decisioni della settimana scorsa, perché esattamente una settimana fa c'è stato il vertice a cui tu accennavi, quello del 21 luglio, in cui i capi di Stato e di Governo dell'Eurozona hanno discusso per 7 ore e sono usciti da questa lunga discussione con il nuovo pacchetto di aiuti alla Grecia e anche con questa insolita citazione della manovra italiana nelle conclusioni. Complimenti alla manovra italiana per tranquillizzare i mercati in qualche modo. Purtroppo l'effetto benefico di queste decisioni e della manovra non sono durate tantissimo, nel senso c'è stato un sollievo, i mercati si sono ripresi per qualche giorno, però adesso la speculazione è tornata all'attacco. Il tutto complicato da una situazione internazionale globale drammatica, perché adesso si è aggiunto a tutto ciò anche il grandissimo problema del debito pubblico americano, che rende tutto molto più incerto. E oggi in particolare c'è stato di nuovo un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato italiano, un nuovo attacco speculativo e insomma gli spread sono risaliti. Insomma, oggi non è stata una grandissima giornata per i mercati e per l'Italia. Francesca, tu facevi riferimento prima alle conclusioni del summit della settimana scorsa, dove veniva citata la manovra italiana e dove veniva dato un giudizio positivo a questa manovra, un giudizio positivo che ovviamente cercava di ridare fiducia ai mercati. Prima del summit c'era stata anche una dichiarazione di Angela Merkel in favore dell'Italia e successivamente anche un commento positivo sulla stabilità del sistema Italia di Jean-Claude Trichet, il governatore della Banca Centrale Europea. Ti volevo chiedere che cosa manca per dare fiducia ai mercati. Ci sono le più grandi, le più alte personalità economiche che hanno espresso favori positivi rispetto alla manovra e soprattutto anche rispetto al sistema. Queste sono cadute, sono parole morte oppure c'è qualcosa che manca per ridare fiducia e dunque anche stabilità? Ma io credo che ci sono due piani di valutazione. Il piano nazionale, in questo momento la politica italiana ha avuto questa prova di forza e di coesione nell'approvazione della manovra, però successivamente si sono di nuovo scatenate diffidi e contrasti all'interno della maggioranza stessa di governo. Questo non aiuta la percezione di stabilità che si può avere di un governo, perché il fatto che il ministro Tremonti sia stimato a livello internazionale e di lui ci si fida a livello internazionale, però facendo lui parte di una maggioranza che in questo momento non appare stabilissima, ovviamente mette anche un po' in crisi la cosa. Il secondo piano è internazionale, cioè Tremonti oggi l'ha detto, fra l'altro su Tremonti oggi circolavano sui mercati voci di dimissioni, quindi c'è sempre questo spettro di possibile instabilità ulteriore, ma a parte questo Tremonti oggi ha detto si parla di speculazione sull'Italia, ma bisogna tenere presente il fatto che in realtà la speculazione è sull'euro, non è sull'Italia. L'Italia in questo momento è stato individuato dalla speculazione come possibile prossimo elemento di contagiabile, però in realtà l'attacco riguarda tutto l'euro. Allora, da questo punto di vista il problema è più grande, nel senso l'euro, i conti pubblici dell'euro complessivamente sono per esempio migliori di quelli degli Stati Uniti d'America, però le agenzie di rating danno giudizi migliori al debito pubblico americano rispetto a quello dell'euro. Questo è un problema che c'è questo problema delle agenzie di rating, esiste e non è ancora stato risolto, tutti lo lamentano a livello per esempio di Commissione Europea. Barnier la settimana scorsa l'ha ribadito un'altra volta dicendo: noi non possiamo essere così dipendenti da tre agenzie di rating che oltretutto sono tutte americane. Questo è un problema grosso, perché finché tre agenzie di rating americane continuano a determinare i giudizi sui debiti pubblici e privati e a tal punto sono determinanti che per le società di vigilanza, le authority che fanno la vigilanza sui patrimoni delle società sia pubbliche sia private, hanno bisogno della certificazione di quelle agenzie di rating, è proprio un circolo vizioso da cui si esce difficilmente. Quindi l'Eurozona ha questo problema di avere dei conti pubblici che non sono pessimi, ma di avere uno scarso coordinamento politico, perché se le decisioni di una settimana fa erano politiche, effettivamente sono state prese delle decisioni politiche importanti proprio per smentire chi dice che non c'è un'unità politica. Ma in realtà queste decisioni sono sempre un po' deboli, perché è difficilissimo mettere d'accordo, nel caso dell'euro 17 capi di Stato, nel caso dell'Unione Europea addirittura 27, su qualsiasi argomento. Infatti le decisioni comuni sono sempre un po' deludenti, un po' deboli, perché sono sempre risultati di difficilissimi compromessi fra opinioni completamente diverse, tradizioni, culture, e quindi è veramente un problema di Europa. In questo momento è molto in discussione tutto quanto, anche appunto sul piano politico. Francesca, cosa vorrebbe dire per la stabilità di tutta la zona euro, dell'Europa stessa, se un paese come l'Italia saltasse da un punto di vista economico? È un'ipotesi che non vorrei neanche prendere in considerazione, e che veramente adesso, a parte tutto, per quanto io potrei sembrare eccessivamente ottimista, però veramente è un'ipotesi. È un'ipotesi che possiamo prendere in considerazione? Io non credo. Non mi sembra veramente possibile, cioè sarebbe una catastrofe, ma non spero di poter di non essere mai smentita, ma sembra veramente difficile prendere in considerazione una ipotesi del genere. L'Italia è un paese importantissimo, è una delle principali economie della zona euro, uno degli stati fondatori dell'Unione Europea. Sarebbe veramente, cioè ha detto una catastrofe, che forse è un po' un termine eccessivo, però non vado molto lontano dal vero. Per l'Europa sarebbe un disastro, mentre una situazione come quella greca è gestibile, perché si tratta di un piccolo paese che pesa meno e oltretutto i numeri sono molto inferiori, e nonostante ciò si stanno facendo grandi sforzi, però comunque si tratta di un piccolo paese che è entrato nell'Europa e nell'euro tardi e che oltretutto ha avuto veramente dei problemi di menzogne a livello di conti pubblici. Francesca, nel caso dell'Italia insomma la struttura è un po' più solida. Francesca, una curiosità, tu hai detto che l'Italia è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, ma questo che cosa c'entra a livello di euro? Come dicevo prima in apertura, Emma Marcegaglia diceva siamo lontani da diventare come la Grecia, ma se le cose continuano così la Grecia non è più così lontana. E cosa c'entra? No, sia uno dei paesi fondatori dell'Unione in sé, al di là del fatto che, come tu dici, è un'economia pesante, credo sia la terza o la quarta economia della zona euro. Sì, è più ancora strettamente collegata alle locomotive dell'Europa di quanto non lo sia la Grecia, cioè tutti siamo collegati, nel senso che siamo un'associazione di stati, dal punto di vista economico e monetario siamo uniti, ma uniti da un vincolo molto forte e molto stretto, quindi in questo senso l'Italia è uno dei paesi fondatori, cioè fa parte del circolo dei principali paesi dell'Unione Europea. Il fatto che la Grecia si avvicina è una cosa su cui stanno scommettendo gli speculatori più spregiudicati, è proprio un azzardo. La Grecia non è vicina perché le sue caratteristiche socio-economiche sono completamente diverse dalle nostre. La Grecia non ha una struttura industriale, non l'ha mai avuta. Noi siamo un po' in sbando come economia industriale, però insomma abbiamo una tradizione di economia industriale, abbiamo una forte tradizione di risparmio privato, non vedo delle caratteristiche simili dal punto di vista della struttura economica fra l'Italia e la Grecia. Il nostro grosso problema è sempre stato quello del debito pubblico, che è altissimo e che abbiamo sempre finanziato con i titoli di Stato che hanno sempre avuto la loro funzione, fra l'altro sono nei portafogli di tutti tantissime famiglie italiane che ci continuano a credere. Insomma, non mi sembra proprio che le situazioni siano paragonabili. Poi i mercati sono una cosa anche un po' particolare, insomma, fanno dei paragoni anche un po' azzardati e comunque le stesse società di rating tanto criticate non si azzardano a fare paragoni fra l'Italia e la Grecia, per ora, adesso potrei essere smentita domani, però non credo, insomma, i giudizi sono ben diversi. Francesca, mi fanno purtroppo cenni dalla regia che siamo in chiusura, noi ti ringraziamo ancora una volta per il tuo interessante contributo alla nostra trasmissione, per averci aiutato a capire meglio questi sviluppi in ambito economico. Ti auguriamo buon lavoro e speriamo di riaverti presto ai nostri microfoni. Grazie mille a voi e buone vacanze. A presto. Altrettanto, arrivederci. Risentirci, buon lavoro. Dunque, Alessandra, non ci resta che salutare i nostri radioascoltatori e augurare a tutti una buona estate e dare l'appuntamento a settembre per una nuova stagione con Giro di Boa. Buona serata a tutti.